Le sette regole dell'arte di ascoltare. Ah, eccoci. Già, regole. Certo. Una parola antipatica, però. C'ha le regole. Sai che le regole da piccina si dicevano per le mestruazioni nel Veneto. Davvero? In Veneto? Sì. C'ha le regole. A quelle sono venute le regole? Sì. A quella c'ha le sue regole? Sì. Una donna regolata. Cioè le sette mestruazioni dell'arte. Perché vengono regolarmente. Perché vengono regolarmente. Vedi, in diretta è stato svelato. Basta, Marco, è conclusa la puntata. Le sette mestruazioni dell'arte di ascoltare. La prima regola, udite, non avere fretta di arrivare alle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca. Perché però hai associato la ricerca e l'ascolto? Questo mi sembra più interessante. Beh, apre anche questo non avere fretta, potrebbe anche presupporre che ci può essere un ascolto calmo e un ascolto affrettato. Potrebbe già far capire due modi di porsi in ascolto. Perfetto, bello. Cioè questo. Io mi metto in modo affrettato. Uno stato d'animo affrettato. E questa regola sembrerebbe indicare che quello calmo, senza fretta, è avvantaggiato. Regola, sì, è migliore, dice la regola. È avvantaggiato. Allora, regola numero 3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione, sì, e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva. Ecco, sì. Rispetti quel tuo sentimento e chiedi aiuto all'altro. Aiutami! Ma se glielo puoi dire solo così, probabilmente, perché se invece... Creandogli un tappeto sonoro su cui lavorare. Esatto! E bim bom... richiesta di servizio, guardate ogni tanto il registratore se va, se non faccio le pile. Sì, sta andando. Bim bom. Ecco, bim bom. Quando ti senti di avere invece ragione, l'altro ti sta dicendo una cosa assurda per te, come l'omicidio per esempio, tu accoglilo. E poi lui, perché questo favorisce le relazioni umane, no? Ma favorisce la relazione di lui con se stesso. Quello è umano, non è mica un disumano. Le radiologie, la cosa, mentre noi abbiamo detto che stiamo facendo le radiografie, no? La radio, le radiografie. Va bene, regola numero 5. Noi stiamo facendo le radiografie, esattamente. Il buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi. Il luogo più fertile è quello più fastidio, quello che ti dà fastidio. C'è cosa da fare. Ah, certo. Quando una cosa ti dà fastidio, lì c'è della roba. Problema da, progetto. Da andare. Cosa dice all'inizio? Problema progetto. Sì, esatto. Lì cosa ti dice? Che fai l'esploratore. L'esploratore. Lì devi esplorare. Devi esplorare. Cose. Attenzione, questo non vuol dire che non avevi ragione ad essere infastidito. Io non sto dicendo questo. Cioè, l'emozione è di fastidio, accoglila. E vai a esplorare e probabilmente... C'è anche l'inter- anche l'indifferenza è un segnale interessante da vedere. Quando una cosa non ti dice niente, vuol dire che in realtà forse ti dice qualcosa. La sesta regola è rivolta anche lei al buon ascoltatore, no? Infatti dice così la sesta, insomma siamo alla penultima. Il buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione. No. Diciamo... Se prendi uno scarpone da montagna e lo picchi tre volte sul tavolo, forse un'ortica ti entra nell'orecchio e poi starnutendo... un piccione scierà sulla tua parte. La quarta regola dice così: le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Anche qui, come nella prima, si presuppone una capacità di accogliere le proprie emozioni, di sapere che ce l'hai, che ad esempio, cose piangi e ridi insieme e non ti accorgi che lo fai, già stiamo maluccio. Tesoro mio, è detto da Simona. Sette regole per il mio primo istinto spesso è scappare dalle emozioni, perché le emozioni mi sembrano i ragionamenti sono delle persone che ti stanno accanto, sono tutte belle pulitine, perfettine, tutte no a posto, non sanno odore, non, o se lo sanno si sono appena fatte il bagno, che è tutto molto, mentre le emozioni, non so, alcune hanno l'alito cattivo, non sono controllabili, sono strane, quindi io spesso distinto. Numero 2, quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista. E senti che figa questa musica, perché? Perché mi piace. Se no, c'è la possibilità di farci suggerire dal nostro vicino come sta sentendo lui quella musica. Settima e ultima regola. Non fornicare. Non desiderare la donna da... Oppure tutte le regole non valevano. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare, devi devi adottare una metodologia umoristica. Posso aggiungere una cosa dell'intelligenza emotiva? Che non ti va di ascoltare sono quelle che sono più utili per te. Io però... Dopo che hai compreso, ti resta la relazione. Queste regole io non lo dico, cioè non lo dico, ma non mi interessa che si sappia da dove provengono. E invece vedi, uno subito a me mi veniva la voglia, la curiosità di sapere chi è questo. Però è meglio che non lo dici. No, se volete. No, non lo voglio sapere. Non ho capito tutto bene. Non lo voglio sapere. Chi è che ha scritto queste regole? Comunque una donna. Ecco. Già questo. Ok. Ecco, vedi le regole, c'aveva le regole quando le ha scritte. No, questa è sessista. C'aveva le regole, esatto. Tratto da un libro. No. Basta. Vabbè, questa è l'arte di sapersi mettere in ascolto. Con le dita nelle orecchie. Lo voglio sentire. Giustamente, è vero, questa è l'arte dell'ascolto. Perché vuole veramente stare in ascolto di quello che gli pare. Cosa, un'altra cosa della definizione. Ecco, quindi questo potrebbe essere una cosa interessante. Che quindi sapersi mettere in ascolto è anche saper trovare l'interlocutore all'interno di un discorso. Accogliere il fatto che si sceglie nella vita. Thank you. alcuna collaborazione, ma semplicemente persone con sentimenti di lealtà e di rinnovamento nei confronti della musica che con spirito di vera solidarietà e tolleranza ci aiutino a diffondere il principio della libera discussione attorno a queste tematiche e del diritto a manifestare le proprie controtendenze nel tentativo di risollevare le sorti di un'attività culturale di fondamentale importanza qual è la musica. Siamo costretti a definire una netta linea di demarcazione fra musicisti, virgolette, consumati, chiuse, virgolette, e musicisti, virgolette, da non consumare, chiuse, virgolette. Rivolgersi ai giovani nella speranza che tutto questo li possa aiutare a trovare un modo di esprimersi con virgolette quanto chiuse virgolette ne è mistificato dall'enorme influenza della società circostante.